Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera da Maurizio Melis, penultima puntata di Smart City prima della pausa estiva. Estate nel corso della quale verranno prese decisioni molto importanti per il futuro del paese, che coinvolgono ambiti dei quali qui a Smart City ci occupiamo da tempi non sospetti: efficienza energetica, edifici smart, lavoro agile, edilizia scolastica, energie rinnovabili, solo per citarne alcuni. E allora vorrei lasciarvi con qualche considerazione. Oggi, nel bel mezzo di una crisi epocale, infatti questi temi sono balzati a detta di tutti in cima alla lista delle priorità, ma solo alcuni hanno trovato risposte da parte del governo. Su tutti, il bonus fiscale del 110% per la riqualificazione energetica degli edifici, un tema su cui facciamo battaglie da 10 anni qui a Smart City, e la speranza quindi è che il bonus funzioni. E tuttavia il rischio è che il patrimonio immobiliare italiano faccia un salto di efficienza energetica, ma non in termini di infrastruttura digitale, di cui pure abbiamo misurato la grande necessità proprio nelle settimane scorse, e che quindi si perda l'occasione di fare leva sulle sinergie tra questi due comparti, riconducendosi, per usare una metafora, al caso in cui si asfalta una strada e la settimana dopo la si riapre per posare un cavo. Su questo tema, non sorprendentemente, c'è la massima attenzione da parte di ANIE, che è la principale associazione confindustriale che riunisce le imprese del comparto elettrico ed elettronico. E allora è qui con noi il presidente di ANIE, benvenuto Giuliano Busetto. Grazie, buonasera a tutti quanti e a te Maurizio innanzitutto. Allora, Busetto, quali sono gli assi portanti di un'infrastruttura tecnologica casalinga? Ti chiedo, mi riferisco soprattutto a quegli impianti la cui installazione può trovare, diciamo, delle sinergie con una riqualificazione edilizia. Ma certo, la tecnologia, la digitalizzazione è fondamentale. Abbiamo avuto un esempio anche durante il Covid di come è importante la struttura di base, ovviamente la rete che poi noi utilizziamo per trasmettere, per dialogare verso l'esterno, ma è fondamentale anche l'impianto presente all'interno di un'abitazione. Parlo di abitazione, ma vorrei estenderlo, se mi consente, all'edificio, poi che sia abitazione personale, residenziale, terziario, che sia commerciale, ma comunque l'edificio. L'edificio abbiamo, naturalmente, il primo elemento può essere l'impianto elettrico diffuso, che in realtà non ha solo la distribuzione di energia, ma tutto ciò che è all'interno di un'abitazione. Pensiamo al discorso di un antifurto, pensiamo alla sicurezza, certo, la videosorveglianza, pensiamo chi è fortunato e magari ha un giardino con l'irrigazione o l'illuminazione stessa, pensa agli elettrodomestici. Oggi anche questi possono essere, per certi aspetti, sempre con alcuni distinguo, connessi in rete tra di loro. Possiamo avere una serie di dati e di informazioni, possiamo avere anche i consumi istantanei dell'elettrodomestico stesso. Io credo che una digitalizzazione sia quanto è necessario anche per la vetustità di molti edifici, certo, presenti in Italia. Oggi abbiamo un ecobonus molto generoso, diciamo, legato a tutta la dimensione dell'energia, incluso per esempio il fotovoltaico. Sì. Mentre sul digitale c'è un buco in questo momento. Qual è la vostra proposta? Allora, la nostra proposta innanzitutto non solo diciamo il fotovoltaico, ma anche i sistemi di accumulo. Quindi come ANIE abbiamo spinto molto affinché ci siano anche queste tecnologie all'interno del super bonus o eco bonus. Noi abbiamo da subito chiesto di estendere alle tecnologie di cui prima ho parlato, quindi impianto elettrico, sicurezza, compreso la smart home, diciamo, sì, tutto ciò che riguarda una smart home, direi, esattamente come dici tu, quindi tecnologie presenti all'interno del super bonus. E poi abbiamo esteso di più la proposta, che è quello di dire: ma valorizziamo il contenuto tecnologico di un'abitazione in modo tale da dare proprio valore intrinseco. È un po' come l'APE. L'APE per anni si è discusso e alla fine si è arrivato a identificare l'efficienza energetica. Ricordiamolo, è il certificato tecnologico. Ricordiamolo, l'APE è il certificato energetico. Tra l'altro è obbligatorio per accedere al bonus fare un certo salto, almeno di un paio di classi energetiche. Questo problema si porrebbe anche per degli incentivi, diciamo, alle tecnologie smart. Come si affronta? Sì, si affronta in questo modo. Innanzitutto c'è una direttiva europea, che è l'844 del 2018, che rende non obbligatorio, ma suggerisce l'utilizzo di uno smart readiness indicator. È un indicatore di intelligenza delle tecnologie presenti all'interno dell'edificio, cioè intelligenza dell'edificio stesso. Il nostro governo non ha ancora previsto l'introduzione nell'ordinamento nazionale, ma noi continueremo a spingere su questo. Un conto è avere questo certificato tecnologico, la cui misurazione l'Unione Europea poi emetterà quanto prevede sulla procedura di calcolo entro, si prevede, settembre 2020. Ma io direi che dobbiamo spingere in questa fase post-Covid proprio per, intanto rendiamo disponibili le tecnologie che ci sono, ma anche il fatto della conoscenza al cittadino stesso e di come questo può portare benefici a lui, alla sua abitazione e nella valorizzazione dell'abitazione stessa. Allora, grazie Giuliano Busetto. Grazie a te. Prima di chiudere vorrei toccare un altro tema che insomma, da padre di due bambini in età scolare mi trova particolarmente sensibile. Le scuole ora di settembre e ottobre saranno rimaste per lo più in gran parte chiuse per sei mesi che avremmo potuto usare per fare una grande operazione di riqualificazione dell'edilizia scolastica con tutte le sue ricadute positive sul PIL, restituendo dignità alla scuola, dotando i plessi scolastici di che cosa? Di infrastrutture appunto per la sostenibilità energetica e di infrastrutture digitali che avrebbero permesso di far respirare quotidianamente il futuro a due generazioni di studenti. Allora temo che questa occasione sia già andata persa. Quello che respireranno gli studenti al loro ritorno in aula sarà invece aria viziata, con concentrazioni di CO2, ne abbiamo parlato anche recentemente, tali da addormentare insegnanti e alunni, e naturalmente c'è il rischio piuttosto evidente anche di alte concentrazioni di particelle virali, non solo il Covid. Non è una novità, gli edifici scolastici sono di fatto gli unici grandi edifici pubblici in cui la legge non prevede la presenza obbligatoria di sistemi per il ricambio dell'aria, che tra l'altro oggi permettono anche di risparmiare energia. Insomma, sembra che a nessuno sia venuto in mente, in presenza di un virus che si trasmette per via aerea, di preoccuparsi della qualità dell'aria nelle scuole. Forse su questo un po' di tempo per intervenire ancora c'è, e quindi io con questa speranza vi saluto e vi do appuntamento a settembre. Buona estate!